Ad alta voce. Maria Paiato legge Amuleto di Roberto Bolaño. Traduzione di Ilide Carmignani. Decima puntata. E me ne uscii da casa di Remedios Varo peggio di una sonnambula, perché i sonnambuli tornano sempre a casa loro, mentre io sapevo che a casa di Remedios Varo non ci sarei più tornata. Io sapevo che mi sarei svegliata all'addiaccio, di notte o già all'alba, che importava, nel cuore della città che avevo scelto per amore o per rabbia. E i miei ricordi che si mescolano senza capo né coda, prima e dopo quel derelitto mese di settembre del 1968, mi dicono, balbettando, tartagliando, che decisi di restare in attesa sotto il sole color acqua, in piedi a un angolo di strada, ascoltando tutti i rumori di Città del Messico, persino quello delle ombre delle case che si braccavano come belve appena uscite dalla tana del tassidermista. E non so quanto tempo passò, se molto o poco, perché ero presente a me stessa a malapena nello spazio, non nel tempo, fin quando non si aprì la porta della casa di Remedios Varo e vidi uscire la donna che durante la mia visita si era nascosta in camera da letto o nel bagno o dietro le tende. Una donna dalle gambe lunghe e magre, anche se indubbiamente, calcolai mentre la seguivo, di statura inferiore alla mia, perché quella donna era alta soprattutto per gli standard messicani, ma io ero ben più alta. Dalla mia posizione di pedinatrice potevo vederle solo la schiena e le gambe, una figura magra, come ho detto, e anche i capelli castani, leggermente ondulati, lunghi fin sotto le spalle e non privi di grazia, malgrado una certa noncuranza che avrei potuto, ma non avrei mai osato, confondere con la sciatteria. La verità è che quella donna era tutta circonfusa di grazia, pervasa di grazia, anche se mi sarebbe difficile dire dove questa si radicava, perché lei era vestita in modo normale, decoroso, con indumenti che nessuno avrebbe osato giudicare originali. Una gonna nera e una maglia color crema molto logore, di quelle che si trovano a pochi pesos sulle bancarelle del mercato. Le scarpe, al contrario, erano col tacco, un tacco non molto alto ma sottile, delle scarpe che non erano del tutto in tono con il resto dell'abbigliamento. Sotto il braccio aveva una cartelletta piena di fogli. Contrariamente a quel che mi aspettavo, non si diresse alla fermata degli autobus, ma si avviò in direzione del centro. Dopo un po' entrò in un caffè. Io rimasi fuori e la osservai attraverso il vetro. La vidi avvicinarsi a un tavolo e mostrare qualcosa che aveva estratto dalla cartelletta, un foglio, poi un altro. Erano disegni o riproduzioni di disegni. L'uomo e la donna seduti osservarono i fogli e poi scossero la testa. Lei sorrise e ripeté la scena al tavolo vicino. Il risultato fu lo stesso. Senza scoraggiarsi, andò a un altro tavolo e poi a un altro e un altro ancora, finché non ebbe parlato con tutta la gente del caffè. Riuscì a vendere un disegno, solo poche monete, così da farmi pensare che in realtà a fissare il prezzo della merce era la buona volontà del compratore. Poi si diresse al bancone, dove scambiò qualche parola con una cameriera. Lei parlava e la cameriera ascoltava, probabilmente si conoscevano. Quando la cameriera le voltò le spalle e si mise a fare un caffè, la donna ne approfittò per rivolgersi ai clienti che erano al banco e offrire i suoi disegni, ma stavolta parlò senza muoversi da dove si trovava. E uno, o forse due uomini, si avvicinarono a lanciare un'occhiata distratta al suo tesoro. Doveva avere 60 anni suonati e portati malissimo, o forse di più. E questo accadeva 10 anni dopo la morte di Remedios Varo. cioè nel 1973 e non nel 1963. Allora ebbi un brivido. E il brivido mi disse, con accento uruguaiano, non messicano: «Ehi, Auxilio, la donna che stai seguendo, la donna che è uscita furtivamente dalla casa di Remedios Varo, è la vera madre della poesia, non sei tu. È lei la madre, non tu, non tu, non tu». Credo che cominciasse a farmi male la testa e chiusi gli occhi. Credo che cominciassero a farmi male i denti, che non avevo più, e chiusi gli occhi. E quando li riaprii, lei era al bancone, tutta sola, seduta su uno sgabello, a bere un latte macchiato e a leggere una rivista che probabilmente teneva nella cartelletta, insieme alle riproduzioni dei disegni del suo adorato figlio. La donna che l'aveva servita, a un paio di metri di distanza, aveva i gomiti appoggiati al banco e lo sguardo sognante fisso su un punto vago, al di là della vetrina, sopra la mia testa. Alcuni tavoli si erano liberati, ad altri la gente tornava a occuparsi dei propri affari. Capii allora che avevo seguito, sveglia o in sogno, Lilian Serpas e ricordai la sua storia, o quel poco che sapevo della sua storia. Per un certo periodo, suppongo negli anni 50, Lilian era stata una poetessa più o meno conosciuta e una donna di straordinaria bellezza. Il cognome è di origine incerta, sembra greco, almeno a me, può suonare ungherese, può essere un vecchio cognome castigliano, ma Lilian era messicana e aveva vissuto quasi tutta la sua vita a Città del Messico. Si diceva che nella sua lunga giovinezza avesse avuto molti fidanzati e pretendenti. Lilian però non voleva fidanzati, ma amanti. E li aveva anche avuti. Io avrei voluto dirle: Lilian, non avere tanti amanti. Dagli uomini non ci si può aspettare granché. Ti useranno e poi ti scaricheranno all'angolo di una strada. Ma io era una specie di vergine folle e Lilian viveva la sua sessualità come voleva, intensamente, dedita solo al piacere del proprio corpo e al piacere dei sonetti che scriveva in quegli anni. E, come è ovvio, le andò male. O le andò bene. Chi sono io per dirlo? Ebbe degli amanti. Io quasi non ho avuto amanti. Un giorno però Lilian si innamorò di un uomo ed ebbe un figlio. Il tizio era un certo Coffin. Forse veniva dagli Stati Uniti, forse era inglese o forse messicano. Il fatto è che Lilian ebbe un figlio da lui e il bambino si chiamò Carlos Coffin Serpas. Il pittore Carlos Coffin Serpas. Dopo, quanto dopo non lo so, il signor Coffin sparì, magari lasciò Lilian, magari fu Lilian a lasciare lui, magari, e questo è più romantico, Coffin morì e Lilian pensò che sarebbe morta anche lei, ma c'era il bambino e sopravvisse all'assenza. Un'assenza che ben presto fu colmata da altri signori perché Lilian era ancora bella e le piaceva ancora andare a letto con gli uomini e gridare di piacere finché non spuntava il sole. Nel frattempo, il piccolo Coffin Serpas cresceva e frequentava già da ragazzino gli ambienti della madre. E tutti si meravigliavano della sua intelligenza e gli preannunciavano un promettente futuro nel procelloso mondo dell'arte. Quali erano gli ambienti che frequentava Lilian Serpas in compagnia del figlio? I soliti, i bar e i caffè del centro di Città del Messico, dove si ritrovavano i vecchi giornalisti falliti e gli esuli spagnoli. Gente molto simpatica, ma non esattamente il genere di persone che raccomanderei a un bambino sensibile. I lavori di Lilian in quegli anni furono molto vari. Fece la segretaria, la commessa in diversi negozi di abbigliamento, trovò impiego per qualche tempo in un paio di giornali e persino in una radio di quinta categoria. Non durava troppo tempo da nessuna parte perché lei, mi disse, non senza un po' di sconforto, era una poetessa e sentiva il richiamo della vita notturna e così era impossibile lavorare regolarmente. Io la capivo, è naturale, ero d'accordo con lei, anche se manifestavo il mio accordo con una voce e con dei gesti che acquistavano in modo automatico e inconsapevole un'aria nauseabonda di superiorità, come se le dicessi: Lillian, sono d'accordo con te, ma in fondo mi sembra un po' infantile. Lillian, non nego che sia tutto molto simpatico e divertente, ma non contate su di me per portare avanti questo esperimento. Come se io, per il fatto di alternare la deleteria Avenida Bucarelli con l'università, fossi migliore. Come se io, per il fatto di frequentare e conoscere i giovani poeti e non solo i vecchi giornalisti falliti, fossi migliore. La verità è che i giovani poeti finiscono di solito per diventare vecchi giornalisti falliti. E l'università, la mia cara università, sta aspettando la sua occasione proprio là sotto, nelle fogne di Avenida Bucarelli. Una sera, anche questo me lo raccontò lei, conobbe al caffè Quito un sudamericano esule, con cui rimase a parlare fino alla chiusura. Poi andarono a casa di Lillian e si infilarono nel letto senza far rumore perché Carlito Scoffin non si svegliasse. Il sudamericano era Ernesto Guevara. «Non ci posso credere, Lillian!» le dissi. «Sì, era lui», mi disse Lillian, con quel modo di parlare che aveva lei quando la conobbi. Una voce molto sottile, da bambola rotta. Una voce come quella che avrebbe avuto il dottor Vidriera se fosse stata una dottoressa o almeno una diplomata e fosse diventata insieme pazza e lucidissima nel bel mezzo dello sventurato secolo d'oro. «E com'era il CEA letto?» fu la prima cosa che volli sapere. Lillian disse qualcosa che non capii. «Come?» dissi. «Come?» «Come?» «Normale», disse Lillian con lo sguardo perso sulla superficie rugosa della sua cartellina. Può darsi che fosse una bugia. Quando la conobbi, a Lillian sembrava stare a cuore una cosa sola: vendere le riproduzioni dei disegni di suo figlio. La poesia la lasciava indifferente. Arrivava al caffè Quito ormai tardissimo e si sedeva al tavolo dei giovani poeti o al tavolo dei vecchi giornalisti falliti, tutti suoi ex amanti, e si metteva ad ascoltare i soliti discorsi. Se qualcuno le diceva, per esempio, «Parlaci di Che Guevara», lei diceva: «Normale, nient'altro». Al caffè Quito, d'altra parte, più d'uno dei vecchi giornalisti falliti aveva conosciuto il Che e anche Fidel, i quali l'avevano frequentato durante il loro soggiorno in Messico, e a nessuno sembrava strano che Lillian dicesse «normale», anche se forse non sapevano che con il CE lei c'era andata a letto. Credevano che Lillian fosse andata a letto solo con loro e con qualche pesce grosso che non bazzicava Avenida Bucarelli a quell'ora di notte, ma in fondo era uguale. Io ammetto che mi sarebbe piaciuto sapere come scopava Che Guevara. Normale. Certo, ma come? Questi ragazzi, dissi una sera a Lillian, hanno il diritto di sapere come scopava il CE. Era una delle mie solite idee folli, senza capo né coda, ma la sparai lo stesso. Ricordo che Lillian mi guardò con la sua maschera da bambola rugosa, martirizzata, dalla quale sembrava ogni secondo che stesse per emergere la regina dei mari, con la sua coorte di tuoni, ma senza che succedesse mai niente. Questi ragazzi, disse. E poi guardò il soffitto del caffè Quito, che in quel momento veniva ridipinto da due adolescenti in cima a un ponteggio mobile. Era così, Lillian. Era così. La donna che mi misi a seguire dal sogno di Remedios Varo, la grande pittrice catalana, fino al sogno delle strade terminali di Città del Messico, dove succedevano sempre cose che sembravano sussurrare o gridare o sputarti in faccia che lì non succedeva mai niente. E così mi rividi al caffè Quito nel 1973. o forse nei primi mesi del 74, e alle 11 di sera vidi arrivare Lillian attraverso il fumo e le luci traccianti del caffè. E lei arriva, come sempre, avvolta nel fumo, e il suo fumo e il fumo dentro il caffè si contemplano come ragni prima di fondersi in un solo fumo. Un fumo in cui predomina l'odore di caffè, perché al Quito c'è una torrefazione. E per di più è uno dei pochi locali di Avenida Bucarelli dove hanno una macchina italiana per fare l'espresso. E allora i miei amici, i giovani poeti del Messico, senza alzarsi dal tavolo, la salutano, dicono «Buonasera, Lillian Serpas». «Come va, Lillian Serpas?» Persino i più storditi dicono «Buonasera, Lillian Serpas». Come se per il fatto di salutarla una dea scendesse dal soffitto del caffè Quito, dove due giovani operai intrepidi si affannavano in un equilibrio che non posso non definire precario, e appuntasse sul loro petto la medaglia del merito alla poesia, quando in realtà quello che accade, ma questo lo penso soltanto, non lo dico, è che salutandola così, in quel modo, l'unica cosa che fanno è mettere la loro giovane testa stordita sul ceppo del boia. E Lillian si ferma, come se non avesse sentito bene, e cerca il tavolo dove sono loro e dove sono io. E quando ci vede si avvicina a salutare e intanto cerca anche di vendere qualcuna delle sue riproduzioni. E io guardo da un'altra parte. Perché guardo da un'altra parte? Perché conosco la sua storia. Così guardo da un'altra parte mentre Lillian, in piedi o già seduta, saluta tutti. In genere almeno 5 poeti, giovani ed eterogenei, radunati attorno a un tavolo. E quando saluta me, io smetto di guardare per terra e giro la testa con una lentezza esasperante. Ma è che non riesco a farlo più in fretta. E anche io le auguro, obbediente, buonasera. E così passa il tempo. Lillian non cerca di venderci nessun disegno perché sa che noi non abbiamo soldi né voglia di comprare, ma permette a chi vuole di dare un'occhiata alle riproduzioni. Riproduzioni curiose, fatte non come capita, ma in una tipografia e su carta satinata, il che dice qualcosa, almeno, riguardo al singolare spirito commerciale di Carlo Scoffin Serpas o di sua madre. Eremiti o mendicanti, che però, in un momento di ispirazione che preferisco non immaginare, decidono di vivere esclusivamente della loro arte. E a poco la gente comincia ad andarsene o a cambiare tavolo, perché al Quito, a una certa ora della sera, chi più o chi meno, si conoscono tutti e tutti vogliono scambiare almeno qualche parola con gli altri. E così io, naufraga dentro una rotazione incessante, a un certo punto mi ritrovo da sola a guardare la mia mezza tazza di caffè e un momento dopo, ma quasi all'improvviso, un'ombra schiva, talmente schiva che sembra attirare su di sé tutte le ombre del caffè, come se il suo campo gravitazionale attraesse solo oggetti inerti, si sposta verso il mio tavolo e mi si siede accanto. «Come stai, Auxilio?» dice il fantasma di Lillian Serpas. «Si tira avanti», dico io. Ed è allora che il tempo torna a fermarsi. Immagine trita quant'altre mai, perché il tempo o non si ferma mai o è fermo da sempre. Diciamo allora che il continuum del tempo ha un brivido. O diciamo che il tempo allarga le sue gambe robuste e si china e infila la testa fra le cosce e mi guarda a rovescio, solo qualche centimetro sotto il culo, e mi strizza un occhio pazzo. O diciamo che la luna piena o crescente o la buia luna calante di Città del Messico scivola di nuovo sulle piastrelle del bagno delle donne al quarto piano della facoltà di lettere e filosofia. O diciamo che cade un silenzio da veglia funebre nel caffè Quito e sento solo i mormori dei fantasmi della corte di Lillian Serpas e che non so ancora una volta se sono nel 1968 o nel 74, o nell'80, o se mi sto avvicinando una volta per tutte, come l'ombra di una nave naufragata, a quel benedetto 2000 che non vedrò mai. Comunque sia, al tempo succede qualcosa. Io so che succede qualcosa al tempo, e non parliamo dello spazio. Io sento che succede qualcosa, e che per di più non è la prima volta che succede, anche se trattandosi del tempo ogni volta è la prima volta. E non c'è esperienza che valga, ma in fondo è meglio così, perché l'esperienza in genere è una frode. E allora Lillian, che è l'unica indenne in questa storia perché ha già sofferto tutto, mi chiede di nuovo il primo e ultimo favore che mi chiederà in tutta la sua vita. Dice, è tardi. Dice, come sei carina stasera, Auxilio. Dice, penso spesso a te, Auxilio. E io la osservo. E osservo il soffitto del caffè Chito dove i due ragazzi assonnati continuano a lavorare o a far finta di lavorare sopra un'impalcatura costruita malamente. E poi torno a osservare lei, che parla senza guardarmi in faccia e fissa invece il suo bicchiere grande e grosso di latte macchiato, mentre ascolto con un orecchio le sue parole e con l'altro le grida che i clienti abituali del caffè Chito rivolgono ai ragazzi sull'impalcatura. Frasi che rappresentano un rito di iniziazione maschile, suppongo. O frasi che vogliono essere affettuose, ma sono solo foriere di un disastro che travolgerà non solo la coppia di imbianchini, o idraulici o elettricisti, non lo so, io li ho semplicemente visti, li vedo ancora, mentre la luna attraversa impazzita ogni piastrella del bagno delle donne, come se questa rotta contenesse tutta la sovversione possibile, cosa che mi spaventa. Ma anche loro, i vociferanti, quelli che danno consigli, noi. E allora Lillian dice, devi andare a casa mia. Dice, stasera non posso tornare a casa. Dice, devi andarci tu al posto mio e dire a Carlos che torno domattina presto. E la prima cosa che mi viene in mente è rifiutarmi di netto. Ma allora Lillian mi guarda in faccia e sorride. Lei non si copre la bocca come me quando parla e nemmeno quando sorride, anche se dovrebbe farlo. E io resto senza parole, perché sono davanti alla madre della poesia messicana. La peggior madre che potesse capitarle, ma in fin dei conti l'unica è quella vera. Allora dico di sì, che se mi dà l'indirizzo e se non è troppo lontano andrò a casa sua e dirò a Carlos Coffin Serpas, il pittore, che sua madre quella notte la passerà fuori.